GR24, il sole 24 ore. Lunedì nero, crollo in borsa, spread verso 530. Secondo Der Spiegel, il Fondo Monetario pronto a bloccare gli aiuti alla Grecia. Occupazione e fuga dall'industria, in 5 anni perso un posto su 10. E ancora buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. In primo piano il deciso calo dei mercati finanziari nel giorno in cui l'euro cade su nuovi minimi storici sul dollaro e sullo yen e i rendimenti dei BTP e dei bonus spagnoli stanno raggiungendo nuovi livelli record. In diretta ancora una volta Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Dopo il venerdì nero abbiamo avuto una mattinata che qualcuno ha definito di panico in Europa sui timori per la situazione finanziaria di Spagna e Grecia. I mercati temono che Madrid possa essere il prossimo paese a dover chiedere il piano di salvataggio a Fondo Monetario Internazionale, BCE ed Unione Europea, mentre Atene da settembre potrebbe non avere più fondi a disposizione, rischiando quindi l'uscita dall'euro. Ecco le performance delle borse del vecchio continente. Cominciamo dalle peggiori. Milano adesso a meno 3,71%, ma Piazza Affari ha toccato anche meno 5, crollando ai minimi storici, quelli che erano stati toccati l'ultima volta il 9 marzo del 2009. Poi la borsa si era ripresa, ma in questo periodo ci ritroviamo di nuovo su quei livelli. La Spagna è arrivata a perdere il 5,5%, mentre Atene è arrivata addirittura a subire un calo di oltre 8 punti percentuali. Tutto questo è condizionato anche e soprattutto dalla tensione che si sta manifestando sui mercati obbligazionari. Lo spread fra BTP e Bund si sta riportando su quei livelli dell'autunno scorso, quando arrivò a 570 punti base. Questa mattina siamo arrivati a 529 per poi scendere intorno a 520. Il differenziale fra i bonus spagnoli e il Bund è a 635 punti base. Questo porta il rendimento del titolo decennale spagnolo al 7,4%. Un'altra notizia della mattinata, sempre per dimostrare la fuga dal rischio degli investitori internazionali e la ricerca di porti sicuri, ha avuto un'asta di titoli di Stato tedeschi con scadenza 12 mesi e anche questi per la prima volta nella storia hanno registrato un tasso di interesse negativo. Crollano naturalmente tutte le banche, molte stamattina sono state ripetutamente sospese per eccesso di ribasso e finite in asta di volatilità. Abbiamo in questo momento sospesa Intesa San Paolo alle 12.44 quando perdeva l'8,5%. Sono regolarmente in contrattazioni le altre banche: Banco Popolare meno 6,47, Ubibanca meno 6, Popolare di Milano meno 6, Monte dei Paschi meno 5,5, meno 5 per Mediobanca e Mediolanum, ma il bollettino di guerra è lo stesso. Questa è la situazione in questo momento, con l'euro sul dollaro a 1,2128, quindi in ripresa dopo le dichiarazioni della Commissione Europea rilasciate poco fa, che si è detta invece più tranquilla rispetto alla possibilità che il Fondo Monetario possa continuare ad erogare i suoi finanziamenti alla Grecia. L'euro però ha toccato i minimi da 11 anni nei confronti dello yen. Direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani per questo aggiornamento. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble incita la Grecia a impegnarsi di più. Se c'è un ritardo, la Grecia deve recuperare, ha detto in un'intervista alla Bild di oggi. Il temutissimo agosto sembra già arrivato. I mercati stanno punendo l'Europa per tutte le decisioni prese e non messe in pratica, per tutti i timori striscianti e le aspettative negative. I listini sono irrazionali, sì, vero, e affondano il coltello laddove fiutano la malaparata. Ma i mercati colpiscono quando avvertono un bluff e fin qui le svolte concrete per arginare la crisi in cui versa la moneta unica sono state ben poche, fatta eccezione per la BCE, alla guida della quale Mario Draghi ha fatto il possibile sia in termini di acquisti di titoli di Stato, sia in termini di liquidità, sfidando i falchi della Bundesbank che da sempre sono contrari all'intervento di Francoforte sul mercato secondario. Proprio ieri il ministro dell'economia del governo Merkel ha soffiato sul focolaio greco, confermando le voci di una possibile uscita di Atene dall'euro. Le voci le aveva diffuse il settimanale Der Spiegel, secondo il quale l'FMI vorrebbe bloccare gli aiuti alla Grecia. A guardare oggi i mercati, Atene sembra ormai un problema marginale. La Spagna sconta rendimenti dei titoli a 10 anni ben sopra il 7% e a Piazza Affari il rosso è profondo. Siamo vulnerabili e esposti al rischio contagio, ma con un avanzo primario di quasi 5 punti di PIL, l'Italia può e deve fare ancora compiti, ma è Bruxelles che dovrebbe battere un colpo. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Contratti, joint venture e memorandum d'intesa sono stati firmati oggi a Mosca tra società italiane e russe, presenti il premier Mario Monti e il collega russo Dmitry Medvedev. Sochi e Mosca non sono lontane dalla tempesta dei mercati finanziari ed è evidente lo sforzo di Mario Monti e di Dmitry Medvedev, che si sono incontrati questa mattina nella capitale russa, di leggere questa visita del Presidente del Consiglio in Russia come la risposta dell'economia reale alla crisi. Con l'auspicio che i 6 accordi di collaborazione tra imprese italiane e russe firmati presso la residenza di Medvedev possano indicare la direzione giusta. I nostri rapporti economici e commerciali si sviluppano nonostante la crisi, ha detto Medvedev, ricordando che l'interscambio tra Italia e Russia è tornato quest'anno ai livelli precedenti il 2008. E questo, ha detto il Presidente del Consiglio, può aiutare l'Italia a imboccare la strada della crescita. Gli accordi firmati coinvolgono grandi gruppi italiani, dall'energia alle banche, Eni e Techint, Poste Italiane, Banca Intesa San Paolo, il gruppo Rizzani De Ecker. Dopo un pranzo con Medvedev, Monti è volato a Sochi, sul Mar Nero, per incontrare Vladimir Putin. E con lui lo sguardo potrebbe allargarsi dall'economia a un altro terreno altrettanto drammatico, quello della politica internazionale, in particolare della crisi in Siria. Antonella Scotto, Radio 24, sulle 24 ore, Sochi. I benzinai sciopereranno il 4 e 5 agosto, ma non il 3. Questo è l'esito dell'incontro da FAIB, Fineca e Figisanica Anisa con la Commissione di Garanzia per gli Scioperi, che ha confermato quindi la legittimità della chiusura per il 4 e il 5. I sindacati hanno invece aderito alla richiesta dell'Authority di escludere dallo stop la giornata del 3 di agosto. L'occupazione è fuga dall'industria in 5 anni, perso un posto su 10. In Italia si fanno pesanti gli effetti della crisi sull'occupazione nell'industria. A lanciare l'allarme è la CISL. In 5 anni, secondo il sindacato, i posti di lavoro persi nel settore sono ben 675.000. Più di 473.000 sono andati effettivamente in fumo. A questi la CISL somma anche gli oltre 201.000 lavoratori in cassa integrazione a zero ore, per i quali è concreto il rischio di restare senza occupazione. Complessivamente la perdita di posti equivale al 10% della forza lavoro che era impiegata dall'industria nell'aprile del 2007. Questo primo scorcio di 2012 fa intravedere una fase ancora difficilissima, rileva la CISL, che nel suo rapporto sottolinea come l'Italia sia ancora bloccata nelle azioni di risposta alla crisi. Secondo il sindacato, guidato da Raffaele Bonanni, per definire le misure in grado di farci uscire dalla recessione rilanciando la crescita, è necessario avviare una fase di forza concertazione fra governo e regioni con il pieno coinvolgimento delle parti sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Gli esteri. As many of you know, early on Friday, questa è la voce di Barack Obama, che probabilmente avete riconosciuto dopo il suo incontro con i familiari delle 12 vittime della strage al cinema di Aurora in Colorado. Ho incontrato i parenti delle vittime non come presidente ma come padre e marito, ha detto. Il presidente ha anche fatto riferimento al dibattito sul controllo e sulla circolazione delle armi negli Stati Uniti, dicendo di augurarsi che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi rifletteremo, ha detto, su tutto ciò che potremo fare per combattere la violenza insensata di cui soffre il nostro paese. Il presunto autore della strage, intanto, James Holmes, 24 anni, dovrà presentarsi proprio oggi davanti ai giudici. La Siria, ora il regime siriano, non ricorrerà alle armi chimiche in suo possesso se non in caso di aggressione esterna, lo ha detto oggi a Damasco il portavoce del Ministero degli Esteri. Intanto le truppe regolari siriane hanno fucilato almeno 20 uomini disarmati a Damasco nel quartiere di Mezzeh, sospettati di aver aiutato i ribelli. I paesi della Lega Araba hanno esercitato nuove pressioni sul presidente Bashar al-Assad affinché rinunci rapidamente al potere per offrirsi un'uscita sicura dal paese. Secondo il ministro degli esteri Terzi, la battaglia dell'esercito siriano rasenta la pulizia etnica. L'esercito siriano sta combattendo una battaglia assolutamente inaudita di massacro della propria popolazione. È andato ben al di là di qualsiasi altra repressione abbiamo visto nei paesi delle primavere arabe. È qualcosa che nel nostro mondo non deve esistere, rasenta la pulizia etnica e i crimini contro l'umanità. Almeno 50 persone sono morte oggi in diversi attentati in tutto l'Iraq. Gli attacchi più violenti sono avvenuti in una base militare a nord di Baghdad, dove sono morti 7 soldati, e a Tai, sempre a nord della capitale irachena, dove sono morte almeno 7 persone. Altri attentati hanno colpito Sadia, Khan Ben Saad, Kirkuk, Kurmandu e Bibis. E ora una notizia che arriva dal Vaticano. Mentre il maggiordomo del Papa Paolo Gabriele è agli arresti domiciliari, si apprende che tra i corvi in Vaticano ci sarebbero persone vicinissime al pontefice, anche se il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, smentisce tutto. Ci saranno sorprese, aveva annunciato qualche giorno fa il cardinale Herranz, a capo della commissione composta da tre porporati e voluta dal Papa per far luce sui corvi in Vaticano. E ora, almeno stando a fonti giornalistiche, sembra che il cerchio si stia davvero stringendo in modo clamoroso. Ad essere indagate ci sarebbero tre persone vicinissime al pontefice. Ingrid Stampa, la governante di Ratzinger, consigliere fidato del Papa, spesso ha contribuito anche alla stesura dei testi pontifici. Tra le poche persone in grado di decifrare la minuta scrittura di Benedetto, la papessa, come qualcuno la chiama in Vaticano, è celebre per la sua gelosia per chiunque si avvicini al pontefice. Joseph Clemens, segretario personale di Ratzinger quando era cardinale, lasciò l'incarico nel 2003 chiedendo la promozione a vescovo, salvo poi pentirsi nel 2005 amaramente per non essere diventato il segretario personale del Papa. Infine il cardinale Paolo Sardi, per tanti anni responsabile dell'ufficio che si occupa dei discorsi del Papa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ministro della giustizia Paola Severino poco fa ha parlato ai cronisti dell'inchiesta di Palermo relativa a presunte trattative Stato-mafia. Noi tutti ne riconosciamo l'importanza perché di fronte all'accertamento della verità nessuno si deve fermare, ha detto. Non ci sono limiti, la verità è una sola e noi dobbiamo cercarla sempre e comunque ad ogni costo. Un commissario in Sicilia sarebbe illecito, non sta né in cielo né in terra. Così il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, ospite di 24 Mattino alla vigilia dell'incontro con il premier Monti per parlare della situazione finanziaria della regione. È un impegno che ho assunto e che annunzerò in sede di assemblea regionale il 31 prossimo 21. Senta, domani che dirà Monti? È arrabbiato per le notizie sul crack della Sicilia che qualche titolo di giornale ha sparato in prima pagina? Per la verità più di qualche titolo. Certamente lo dirò a Monti così per riferirglielo, perché non si deve a Monti tutto questo, perché questo, oltre che nuocere alla Sicilia, come ci stiamo accorgendo, nuoce anche all'Italia. Io gli dirò che, sebbene la situazione è difficile, tenga conto che il nostro rating è simile a quello del Veneto e siamo più avanti rispetto al Piemonte, la situazione è difficile, ma è difficile non perché i nostri conti non tengano, però noi riusciamo a governarla. Però lei sa che Standard & Poor's proprio ieri ha sospeso il giudizio sulla conti della Sicilia. Ha questo confermato il rating, ma questo è il frutto della campagna di aggressione che è stata fatta contro la Sicilia. È tutto, il prossimo GR alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.